chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Buona domenica! Buona domenica! Stavamo disquisendo sulle mie albicocche. Perché allora la mia colazione è noci, mandorle, frutta di stagione. Quindi stamattina mi sono preso anche un po' d'anguria. Ma quando era quel film dove c'era Papa Leo che ha tipo, forse era Basilicata, non so. Comunque andava dalla nonna e i parenti le dicevano: Rocco, tocca la nonna, tocca, guarda, la pelle è una pesca. Una pesca. Dalle sue parti, esatto. Sì, sì. No, tu stavi disquisendo sulla pelle dell'albicocca, non vi voglio dire cosa, che buon profumo. Ma parliamo di cani. ma parliamo. A parte la cognizione dell'albicocca, che Stefano Mancuso, che abbiamo intervistato tempo fa, avrebbe qualcosa da dire probabilmente sulla cognizione delle piante. Beh, c'è un brano famosissimo di un bel po' di anni fa degli Squallor che si intitolava Tocca l'albicocca. Tocca l'albicocca. Tocca ma l'albicocca. Parliamo di cose serie, ragazzi. Allora, io ho trovato un articolo del 19 maggio 2017 sul Sole 24 Ore. Uh-huh. Il traffico illegale dei cuccioli di cane e gatto all'estero vale 5,6 milioni la settimana. Sì, tra l'altro, piccolo inciso, questo articolo è stato tratto dal blog di Guido Minciotti, che salutiamo, che vi invitiamo, certo, voi che ascoltate, ad andarlo a vedere, perché è un blog veramente ben fatto, esatto, sui nostri amici a quattro zampe. Allora, in Italia si registra un traffico di circa 8.000 cuccioli che ogni settimana. Ogni settimana vengono introdotti illegalmente nel nostro paese e che ha un valore commerciale di 5.600.000 euro, che la trovo una cosa raccapricciante. Come cavolo si fa a cercare di bloccare questa... Ma noi siamo qui per questo, perché chi ci ascolta saprà perfettamente, per esempio, che i cuccioli dalle fiere del cucciolo non si comprano. E sai perché non si comprano le fiere del cucciolo? Perché purtroppo la maggior parte dei cuccioli del traffico illegale vanno a finire a volte nei negozi, a volte insomma, e che cosa succede? La metà di questi cuccioli, bisogna dire già, muore durante il viaggio. Vengono strappati prematuramente dalle loro mamme. Prematuramente che cosa vuol dire? Che il cervello del cane si struttura in modo sano quando può restare con la mamma fino a 7-8 settimane. 2-3 mesi all'incirca, un paio di mesi. Se il cucciolo viene sottratto alla mamma prima, non ha tutta una serie di insegnamenti, di cose che vengono fuori grazie al legame con la mamma. Per esempio, c'è una fase che si chiama fase del morso inibito, in cui i cuccioli cominciano con i dentini che spuntano intorno ai 35 giorni più o meno a mordersi, perché giocano tra di loro, si fanno un po' male, e allora quando fanno male il cucciolo urla e attira le attenzioni della mamma, che interviene e dice: stai esagerando, adesso non lo fai. Questo contribuisce a formare autocontrollo e autoregolazione emotiva nel cucciolo che sta mordendo. Se questa fase viene saltata, c'è un alto rischio che quel cane vada incontro a cose come l'iperattività o al fatto che non sappia regolarsi, e questo è un problema comportamentale serio. Ma è soltanto una delle cose, perché questo genere di cose fanno in modo anche che quei cuccioli non godano di buona salute fisica anche. Certo. Poi la metà durante i viaggi muoiono perché li tengono senza acqua, senza cibo, in condizioni che non ti dico. Poi vanno a finire in chi li compra, spesso senza i pedigrino, perché mi dice: che cacchio, me ne frega il pedigrino. Però quello è un segno che dietro chissà che cosa c'è. Questo da parte della gente comune. Poi dovrebbe esserci una corretta applicazione delle normative in vigore, perché ci sono delle normative in vigore, no? Ci dovrebbero essere procedure per l'esecuzione di controlli nella movimentazione comunitaria di cani e gatti. Qui si è preso tutto un po' così, insomma, non vengono controllati. Ci sono, voglio dire, ma sai, poi con tutti quei soldi, sai come si dice, no? Che i soldi servono anche a oliare gli ingranaggi. Chissà che cosa succede. Sì, infatti, difatti, qui Guido Minciotti nell'articolo dice che possono fare molto anche i cittadini, oltre a quello che dici tu di non comprare i cuccioli nelle fiere, perché se si vuole acquistare un cucciolo per regalargli amore, il modo peggiore è quello di prendere modalità non controllate, dandogli sofferenze e finanziando la malavita. Sì, perché loro fanno leva sul fatto che te, quando vedi quel cucciolo lì, ti intenerisci e dici: adesso questo che cosa fa? Ma ogni volta che tu compri da questi qua, va a finire che incentivi quel tipo di traffico, e quindi altri cuccioli soffriranno. Sì, non è facile. A me piacerebbe provare a parlare magari con un legale. Magari una volta chiamiamo Susanna Chiesa, che è molto dentro, che è quell'avvocato di Freccia 45, che è riuscita a far chiudere Green Hill, che ha chiuso due laboratori di sperimentazione animale, perché forse lei ci potrebbe dare dei suggerimenti in più. Perché qui, per esempio, una cosa interessante interessante che scrive Guido Minciotti, dice che per esempio la LAV, le responsabili LAV animali familiari denunciano una pericolosa flessione del numero di animali sequestrati da imputare a un minor numero di controlli, ecco, e non ad un minor traffico. Bene. Perché invece per esempio in una regione strategica come il Friuli Venezia Giulia, il corpo forestale regionale, che nel 2013-2014 aveva sequestrato 535 cuccioli di cane e 5 di gatto, ci ha informato che nel 2015-2016 non sono stati svolti controlli. Vorrei anche dire che la compassione, questa è una cosa che non diciamo da tanto tempo, ma la compassione che noi dimostriamo nei confronti dei nostri amici animali è la stessa compassione che noi dimostriamo nei confronti degli esseri umani, per cui chi tende a disinteressarsi della questione animale normalmente è una persona un po' più cinica, che ma poi certo, dice anche ma sai, a ben guardare, se a me non mi viene niente in tasca, ma perché devo occuparmi degli, esatto, altri? Perché a guardare bene anche l'avversario politico non è che potrebbe anche non esistere, le sue guai forse potrei anche essere contento, ma forse se guardo bene anche il mio vicino di casa è un po', e forse se guardo bene anche il mio partner o mia moglie o cioè, i miei figli, capito? Esatto. Quindi questa tendenza a schematizzare e dire a me che cosa conviene purtroppo è quello che sta mandando il nostro oppure a me paese, cosa me ne frega? A farsi bene. Allora, io vi volevo ricordare, scriveteci a chiedimi se sono felice @radio24.it, perché noi leggiamo sempre le vostre mail. E adesso però, caro il mio Vaira, abbiamo già esaurito il nostro primo blocco quando parliamo di cose interessanti. Ma fra poco parleremo di cibo, di che cosa prova il cane quando è a tavola e chiede cibo. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Rieccoci, stiamo cercando notizie di cui parlare perché sono tutte qua sulla scrivania, ma sono tantissime, quindi esatto. Rosetta. No, e poi oggi mi bacchetta perché mi ti bacchetta perché deve essere pronto. Carota. Allora, vabbè, insomma, parliamo di cibo dei cani. Sì, parliamo del cibo dei cani perché a volte ci scrivono e ci dicono ma è giusto dare il cibo da tavola? Ma che cosa succede quando il mio cane è a tavola e vuole il cibo da lì? Perché ci sono quelli che ti dicono è assolutamente sbagliato, il cane non dovrebbe mai prendere cibo da tavola. Ci sono quelli che dicono vabbè, che ma non te è il caso daglielo, nostro, che perché non è il caso è... nostro, eccetera. Vabbè, insomma. No, però è vero che se tu lo abitui poi dopo magari è lì che ti stressa, che lo porti al ristorante e quindi tu non puoi più mangiare, diventa... Cioè, di base... Credo, mi dica dottor Vaira se mi sbaglio, di base dovrebbe essere come educhi un bambino. Se quando tu educhi un bambino a stare a tavola composto, a non urlare, a non giocare con le posate, così diventa un bambino educato e a tavola puoi fare qualunque cosa. Ma tradotto in soldoni, perché per esempio adesso ti faccio una domanda, vediamo se la Celentano è stata attenta, e la faccio anche a voi che mi state ascoltando. Da tutto questo anno e mezzo che abbiamo fatto in radio, quasi due oramai, due. Siamo in radio. Allora io chiedo, quando il cane si mette lì a tavola e chiede cibo, no? È una supplica o è soltanto speranza? Cosa sai con gli occhi quanto là? Tempo quanto tempo c'ho per rispondere? Le cuffie ce le hai adesso? Mai buongiorno. Tempo. Allegria, signori ascoltatori. Allegria, allora, allora è una supplica. Si mette le occhi languidi con la bavetta alla bocca. È una supplica. Secondo me è una supplica. Brava, la risposta corretta. Ah sì? Eh sì, perché allora è ovvio che c'è di mezzo anche la speranza. Cioè mi metto lì, io spero che mi arrivi del cibo. Ma la supplica ha una connotazione sociale, sì. Cioè il cane in quel momento lì non fa quella faccia soltanto perché sta sperando, lui è perfettamente conscio che sta interagendo con te e che quell'espressione lì è un'espressione che richiama tenerezza, che funziona in qualche modo, no? A me no, come non funziona? Con te non funziona. Quando io ti guardo ti supplico non funziona. Ah, ecco, no, perché io so che devo stare attento a non darti le cose quando tu le chiedi, capito? Ma soltanto come premio per altro. Ma passiamo ad altro. Ecco, appunto, no? Vedi. A Wanda, Barbata. Barbata. Peter, che cosa mi stai combinando quanto tutte le volte? È veloce, Peter, è attento. Ormai c'è tutte le sigle lì pronte. Peter Bescapè in regia, salutiamo, grazie, salutiamo Peter. Anche Miriam che ride, salutiamo anche Miriam Lucchetti. Ma allora, quindi tornando al cibo da tavola, no? Sì, che cosa certo fa? No, sì, perché è implicato pure, vedi, con queste cose. Allora, che cosa fare quando il cane è a tavola? Dargliela. Esatto, brava Rosy. Allora, no, allora, dobbiamo dire questa cosa qua. Il cane quando... ma mi fate fare un discorso serio in ma questa radio? Ma è serissimo, ce l'ho. Vedo, me ne rendo conto. Sembri Giovanni Giacomo. Abbiate pazienza a casa, io voglio aiutarvi con il vostro cane a tavola, ma qui mi interrompono propinando altri argomenti. Vabbè, allora, se vogliamo cambiare argomento, non lo no, so. Ma perché? Cioè, perché? Ma chi lo dice che bisogna prenderlo seriamente? Ha scritto pure un libro su Un cuore felice che si parla di gioco, dove prendere le cose col gioco. Dopo ne parliamo, non... vai. No, perché quindi... non tutte le cose importanti devono per forza essere serie. No? So che in questo momento mi sento abbastanza preso in giro. Ecco. Ma non è vero, abbastanza amore, sotto è la lente di ingrandimento. Che stanno... ha detto la stronzetta giornaliera. Ecco. Vedi? No, non è vero. E aggiungiamo cose su questo. Sto sudando, sto grondando su perché mi sento. Vabbè. Vai. Allora, quindi, quando, la tavola. Quando allora, ci supplica il cane? Quando ci supplica il cane, succede anche purtroppo che lui sta liberando succhi gastrici, la bavetta alla bocca, cioè in quel momento lì si stressa anche. Ci sono dei cani che si stressano parecchio mentre stanno aspettando il cibo da tavola, perché noi inconsciamente li addestriamo a stare lì in attesa. Allora, quando il cane ha un comportamento eccessivo da questo punto di vista, è meglio non dargli più di cibo da tavola. Però se uno già l'ha fatto, quello ugualmente sta male, poi non mi sembra che mollino facilmente l'osso. No, non mollano facilmente, l'importante è che tu sia coerente. Cioè, coerente che cosa vuol dire? Che se te resisti, il cane fa qualcosa in più. Capito? È un effetto che tu dici, non mi stai dando il cibo, forse devo esagerare, appunto. Te lo chiedo di più, quindi abbaio, vado alla finestra, ti gratto i pantaloni, ti salto in braccio. Questa impennata iniziale è poi seguita invece da una sorta di rassegnazione, che okay, il cibo da tavola non viene più, avviene abbastanza in fretta. Se però proprio nel momento in cui il cane ti sta chiedendo di più, tu in quel momento ti dispiace questa cosa qua e dici, vabbè dai, tieni questo purché sia l'ultimo, il cane non sa che cosa tu hai detto, che tieni questo purché sia l'ultimo, certo. Sa che se esagera e se si comporta ancora peggio, tu gli dai il cibo. E quindi lo stai inconsciamente addestrando ad essere, ecco, il peggio di sé. È una volta che uno, non sapendo oggi questa pillola di saggezza tua... Supposta, grazie. Quella era supposta, sì, me ricordo. Potremmo rifare qualche supposta di saggezza. Una persona che non sa questa cosa qui e che oramai magari per i primi 2 o 3 anni ha sempre fatto così, ora non sa più come interrompere questo schema, non si può più. Io l'ho appena detto come interromperlo, perché il cane finché è vivo apprende, non è che se tu lo hai fatto pure per 10 anni il cane può apprendere ancora, non è un problema. Ma scusa, l'importante è che tu smetti di dare cibo, punto e basta. E magari fare il cane qualcosa di diverso mentre noi mangiamo, non so, lo metti a cuccia con un giochino suo che gli piace, sta lì e noi mangiamo, purché sia un giochino, perché se tu gli dai cibo, a parte che alcuni cani col giochino poi non ci stanno perché si aspettano, in quel momento lì sono nella motivazione del cibo. Se tu però gli metti a cuccia e gli dai il cibo, loro dicono faccio casino così mi mette a cuccia e mi dà il cibo. Il cane non è stupido. No, infatti. Detto questo, quindi si interrompe drasticamente. Quello che puoi fare è alla fine del pasto dargli un bocconcino. Perché è importante questa cosa? Cioè, perché è importante? Perché si può fare questa cosa qua? Perché la relazione passa anche attraverso la nutrizione. Cioè, quando noi diamo un bocconcino al cane, mettiamo in moto anche i circuiti sociali. Mm-hmm. È importante anche questo. Quindi, se il vostro cane non dà di matto quando è a tavola, se il vostro cane è semplicemente lì, tranquillo, ai vostri piedi, non ha la bavetta alla bocca, non è stressato, ogni tanto il bocconcino da tavola glielo potete pure dare. E sto dicendo una cosa che i cinofili normalmente non dicono mai, quindi adesso mi scriveranno e mi diranno Angelo che cacchio hai detto. Ma chi se ne frega, voglio dire, ma cioè... infatti no, assolutamente diciamo le cose come stanno, ogni cane è a sé, lo diciamo sempre ma poi non lo facciamo mai. La regola vale per tutti i cani, tutti uguali, ma... non è così, dipende dal cane che tu hai lì, dipende anche dal tipo di vita che fai, dipende anche dal tipo di vita, dal tipo di relazione che tu hai instaurato col tuo cane, dipende da un sacco di cose. Di base non c'è una regola unica, ma soprattutto tu mi insegni. Io ti insegno. Intanto io non insegno a nessuno, tanto meno a lei, Celentano. Che c'è una bella differenza fra addestrare ed educare. Sì. Io, per esempio, ho detto addestrato. Il mio microfono va e non va. Sembra. Che succede? Ora va. Adesso va. Ora va. Allora, cos'è ora che no. Stavi dicendo? Dicevo che differenza che c'è? C'è una bella differenza fra addestrare ed educare. Ed educare, sì, sono due cose molto belle. Addestrare si addestra al circo, quindi è meglio non farlo. No, giusto? No, assolutamente. Allora, sebbene oggi devo dire si tende a identificare come addestramento le pratiche coercitive. Le pratiche coercitive, perché questo? Perché storicamente gli addestratori di una volta, purtroppo qualcuno anche oggi, usa i metodi coercitivi, cioè io ti obbligo a fare le cose, tu non fai quello che dico io e ti do una bella strattonata, non fai quello che dico io e ti do un calcio, ti urlo dietro, via di... questi sono i metodi coercitivi, cioè ti obbligo a fare delle cose. Siccome la vecchia scuola faceva questo e questi erano gli addestratori, non erano educatori, oggi si tende a dire l'addestramento è quella roba là, ma non è vero. Addestramento è una parola che significa rendere destro. Quindi se io utilizzo metodi gentili per insegnare al cane cose specifiche, come per esempio anche l'agility, per esempio l'agility, l'addestramento del cane da valango, da superficie, da protezione civile, l'addestramento alla pet therapy, cioè sulla base dell'educazione, che tra poco spieghiamo meglio che cos'è, io addestro il cane ad ambiti di intervento circoscritti, pet therapy, soccorso. Questo lo posso fare in modo gentile. Non è detto che io vada a usare coercizione, però l'addestramento è qualcosa che viene dopo l'educazione. L'educazione è tirar fuori il potenziale del cane, farlo crescere come individuo, con le sue competenze sociali, la capacità di comunicare, la capacità di pensare, imparare a imparare. E queste sono cose che tu tiri fuori con il gioco, la relazione, la comunicazione. Ecco perché è pieno di educatori cinofili ed è giusto che il cane vada dall'educatore cinofilo. Dovrebbe essere quasi obbligatorio. E poi tra l'altro scopri come comunica il cane, leggi segnali calmanti che fino ad allora tu non sapevi manco che esistevano, te li perdevi tutti. Il cane ci comunica in modo così sofisticato tutte le volte che se noi non abbiamo le antenne dritte e non riconosciamo quel linguaggio, è una comunicazione che viaggia a meno della metà. Ma oltretutto ci obbliga ad avere queste antenne dritte, ci obbliga a migliorare anche noi la nostra attenzione verso il prossimo, chiunque esso sia, perché poi quando io ho iniziato a capire un po' di queste cose, da quando ti frequento a debita distanza ovviamente e da quando ho iniziato a vedere cose anche nelle relazioni fra noi esseri umani che prima non coglievo, quindi vuol dire imparare è come quando impari una lingua diversa dalla tua, no? Vai in un altro paese, scopri delle sfumature diverse in quella lingua, il modo di comunicare è diverso, non in tutti i paesi si usa parlando dare del lei come quindi, del lei o del voi come noi, capito? Ci sono alcuni tu immagina cos'altro può essere la relazione col cane che non è soltanto fine a se stessa. È questa l'impronta che io ho fortemente voluto nella mia scuola, c'è qualcosa che la relazione diventa un portale, cioè attraversata quella soglia non sei più la stessa persona di prima, cresci come individuo anche in ambito umano e non puoi che crescere in modo migliore. Domenica c'è stata una nostra amica Maiken, dico questa cosa al volo, che ha un cane fantastico, come si chiama quel cane lì topeloso, che il bearded collie, che è fantastico. E però ho visto che lo portava al guinzaglio, con il guinzaglio di corda, non so se era anche un po' strozzo oppure no. E noi gli abbiamo detto non lo farle, ha detto ma ci hanno detto gli allevatori, i veterinari hanno detto che è una moda quella di mettere la pettorina, ma che non va bene perché così non riesce a dargli il comando. Questo vedi? E torniamo al discorso dei metodi coercitivi. Esatto. Cioè questa, come posso dire, questo misunderstanding, no? Cioè visto che la pettorina, con la pettorina il cane è più comodo, allora io ho bisogno di qualcosa come il collare perché così mi sento. Ma allora tu stai basando il tuo insegnamento su qualcosa di doloroso, su qualcosa di fastidioso, sulla perché, paura anche, perché il cane dovrebbe imparare a non tirare non perché lo strumento gli fa male o gli crea fastidio. Il cane impara a non tirare perché tu lo porti in uno stato mentale, in uno stato emotivo di tranquillità, perché c'è connessione con te. Questo è il motivo per cui il cane non deve tirare, non perché sente fastidio, non sente il comando dato, perché quella è l'impostazione da metodi coercitivi. Ma tra poco, quanto manca ancora? Abbiamo un minuto. Tra poco, magari dopo la pausa che noi ci prenderemo, volevo parlare di questa iniziativa che ci sarà a Milano. Ci sarà la settimana milanese del cane organizzata dall'ENCI. L'ENCI purtroppo ha al suo interno ancora degli addestratori che utilizzano metodi coercitivi. Io ho cercato, abbiamo cercato qualcuno per parlare con loro, ma purtroppo, anche almeno per oggi, non è stato possibile intervistarli. Spero che i nostri microfoni vogliano stare con noi, perché a me piacciono molto le cose che fanno l'ENCI. Ancora su qualcosa non riesco a capire che direzione ha preso, no? Appunto sulle metodologie, è una cosa che mi interessa molto, ne parleremo. Infatti noi magari chiediamo se ci sta ascoltando il presidente Dino Muto, se vuole fare una chiacchiera con noi, così ci confrontiamo molto, appunto, molto anche volentieri su queste cose. Una pausa. Una pausa. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Ma che hanno acceso i microfoni, ti stanno sentendo, volevo dirtelo. Allora, visto che oggi è l'11 giugno, oggi 11 inizia... giugno, di già. Eh certo, purtroppo, amore. Allora, visto che è l'11 giugno, oggi inizia una manifestazione che si svolgerà con il patrocinio del Comune di Milano, che è la Settimana Milanese del Cane, un evento organizzato dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, l'ENCI, con il patrocinio appunto del Comune di Milano e il Municipio 1. Questa manifestazione durerà da oggi, domenica 11, fino al 18 giugno, quindi una settimana. Esatto, da quello che ho capito anche c'è una parte, soprattutto l'inizio, che è a Parco Sempione, e un'altra parte poi si sposta al polo fieristico di Ro. Sì, ci saranno spazi per la città in tutta la settimana, ci saranno iniziative legate al mondo della cinofilia in tutte le sue declinazioni, rivolte a un target trasversale. Quindi, caspita, a saperlo prima potevamo partecipare pure noi, no? In che senso? Io facevo il cane e tu mi addestravi. In che senso? Perché ne partecipiamo? Facciamo sempre in tempo, amore. Tu dici non alla settimana. Il microfono, allora, non posso toccare il microfono. Non perché c'è microfono e microfono, capito? E questo è il problema. Allora, no, vabbè. Adesso poi dopo ci prendono per trasmissioni minori a prenderci, sì, un po' in giro. Da minorati. Non viene. Allora, mi senti Peter che mi stai guardando male? Sta capendo se va il mio microfono oppure no. No, dicevo, adesso a parte gli scherzi, a saperlo prima potevamo contribuire anche noi. Cioè, uno come te non poteva contribuire ad accrescere. Ma quelle sono altre cose. Però, insomma, volevo chiedere a Lynch. Allora, visto che prima ne stavamo parlando, no, poco prima della pausa, sì. Benissimo, ci sarà il disc dog, l'agility, cani cross e via dicendo. Nell'Enci si praticano ancora discipline come per esempio l'ipo, no? E, cioè, utilità e difesa, chiamiamole così. E ipo? Prima, sì, IPO, è un acronimo. Ah, che sta è un acronimo per... che adesso non mi ricordo, non la pratico da talmente tanto tempo, perché anch'io ho praticato quel genere di disciplina. Quando io ho cominciato a fare questo lavoro, ero in un campo di addestramento dove si faceva l'attacco, la difesa, la ricerca, l'obbedienza. Però tutto poggiava sulla coercizione, come ancora oggi succede. Normalmente laddove vedete collare a strangolo, uguale coercizione. Okay, quindi tutte, tutte le altre cose che dicono, ma è una moda la pettorina, ma con la pettorina non puoi comandare il cane, perché, aspetta, non puoi... tra la pettorina e il collare a strangolo c'è anche il collare fisso o a semistrangolo. Io per esempio per molti anni prima della pettorina usavo il collare a semistrangolo. Perché questo? Perché praticamente quando tiravi si blocca. Allora io lo regolavo in modo che si bloccasse quanto la circonferenza del collo del cane, in modo che non potesse andare a strozzare di più, e quando io rilasciavo diventava più comodo del collare fisso normale. Quindi quella era una mia particolare modalità. Però scusami, ti posso fare una domanda? Sono necessari? Assolutamente no. Per anche con i cani aggressivi sono necessari? No, se una persona sa come lavorare senza di quelli, non sono assolutamente necessari. Sarebbe come dire, se devi fare psicoterapia per un depresso, gli metti la camicia di forza. Ma che c'entra? Certo, se una persona sa come lavorare con gli animali. Sì, c'è anche chi dice so lavorare ugualmente con gli animali, io ti tolgo anche il cane che ne so, dall'aggressività. Il problema, sai, sono i cani paurosi, insomma, il cane aggressivo è un po' più facile da abbordare. Però bisogna usare il collare a strangolo, perché così il cane ti sente, così tu lo puoi obbligare, deve capire che è il capobranco. Ecco, queste cose qua oramai scientificamente non esistono più. Il cane ha una struttura sociale familiare, lo sappiamo dalla ricerca dell'osservazione dei cani randagi. Scientificamente è stato provato che non servono scientificamente, più. Scientificamente, sì, c'è tutto un filone di ricerca dell'etologia del cane e della famiglia. Cioè, non è più accettabile ancora parlare di questa cosa del capobranco, sia perché scientificamente non è più valida, sia perché la maggior parte degli educatori cinofili, in Italia sa e già lavora considerando il cane come un membro della famiglia e non come un subordinato che sta al militare. Ma perché qualcuno di questi che invece crede che siano ancora validi non fa una chiacchiera con noi in radio, non ci confrontiamo direttamente? Ah, ma magari. Non ci scrive a chiedimi se sono felice che ho c'è Radio 24.it. Quindi, se per siete parlarne in ascolto, addestratori dai metodi coercitivi, scriveteci. Qualcuno di loro dirà no, io uso il metodo tradizionale o classico, perché c'è anche questa cosa delle parole. Per esempio, il collare a strangolo, perché fondamentalmente strangola il cane. Certo. Cioè, se tu prendi quel collare e tiri su, il cane viene impiccato, e se non lo molli muore, come da impiccagione. Okay. Esatto. Quindi è un collare che strangola, però molti delle persone che utilizzano questo collare dicono io lo chiamo collare a scorrimento, ed è vero che scorre, perché certo scorre in un anello, però è anche un collare a strangolo. Ecco, l'ho detto proprio, vaffanculo. Vabbè, comunque, a parte questa cosa, si vede che noi ovviamente siamo di parte da questo punto di vista. Vabbè, saremo pure però parte, però ameremo anche fare un confronto. Quindi, appunto, se c'è qualcuno che ci vuole rimandare a fanculo no, a noi, esatto, che ha una posizione opposta, diversa dalla nostra, via dicendo, ci contatti pure, perché assolutamente ne parliamo. Ma guarda, a tempo fa erano arrivate due o tre mail che dicevano che tu non avevi parlato in modo scientifico di, non so se forse era ancora il collare a strano, comunque si parlava di coercizioni, e io ovviamente rispondendo alle mail ho detto guardi, siamo felicissimi di questa sua osservazione, se mi dà il suo numero di telefono, un suo contatto, la chiamiamo così ne parliamo direttamente in radio. No, la risposta è stata non pensavo pensavo che mi avreste risposto. Comunque va bene così. Sono contenta che Rosita non ti sia offesa, non vi siete arrabbiati. Arrivederci e grazie. Cioè, totalmente paradosso. Le ho conservate quelle mail perché erano molto simpatiche, molto divertenti. Però il punto è che spesso anche mia madre mi dice: vabbè, ma perché non chiamate qualcuno che vi fa il contraddittorio? Ma noi continuiamo a dirlo a tutti, certo. Ma nessuno viene a fare sto contraddittorio. Marco Cruciani gli abbiamo detto di venire qua a parlare con noi, non vuole venire. Pensa, se non viene lui, che dice di non aver paura di nessuno, figurati gli altri. Vabbè, ma magari hanno altro da fare, eh. Ma chi? Anche Giuseppe, cioè questo sta in senti, radio tutti i giorni. È scappata a gambe levate, perché finché ciancia lì lui che attacca il telefono quando uno sta prendendo una cosa intelligente, funziona. Lui qui, secondo me, c'ha paura. Vabbè, se Giuseppe, non hai paura, Cruciani, vieni vuoi, a chiacchierare con noi, chiedimi se sono felice. Sì, però a parte questo vale anche per chi io amo il confronto con chi la pensa in modo diverso da me. Appunto. Perché c'è sempre uno spazio per crescere. Appunto. Quindi assolutamente mi voglio. Anche perché posso dirti: noi favorevole al confronto con chi utilizza il colare strano. Noi siamo disponibili a dire che ci siamo sbagliati, se mi fai capire dove mi sono sbagliata, perché solamente così si può crescere. Ma sai, in un confronto, questa è un'altra cosa che insegnano gli animali, lo insegnano, sono veramente dei maestri fantastici. Non è che tu da un confronto deve per forza venirne fuori uno che vince e uno che perde. Appunto. Da un confronto, come dice Stephen Covey, può venire fuori anche la cosiddetta terza via, cioè tra due posizioni contrapposte si arricchiscono l'un l'altro, le persone vanno via con un'idea generale un po' più vicina alla realtà o migliore rispetto a quella che dalla quale sono partiti. È questo che serve il confronto. Io veramente sono. Deve esserci un sottofondo, un'intenzione di curiosità, di interesse nella posizione dell'altro. No, e vai, gli animali, sai quanto mi incuriosisce. Perché gli animali sono insegnanti da questo punto di vista? Perché nelle classi di socializzazione, che sono un particolare modo di aumentare le competenze sociali del cane, che è una cosa che hai fatto tu, che hai ho ideato tu. Io insieme ad un collega che si chiama Ivano Vitalini, e oggi stanno spopolando, no? Le classi di socializzazione, classi di comunicazione. Però anche qua si potrebbe aprire una parentesi lunghissima, ne parliamo magari nella prossima puntata o nelle prossime. I cani quando si anche quando si scontrano hanno come una funzione dentro per poter poi arrivare a dividere lo stesso territorio tollerandosi o addirittura arrivando a cooperare. Lo scontro ovviamente è una cosa grossa, però tante volte gli animali si confrontano tra di loro senza arrivare allo scontro, alla lotta. Lo fanno perché magari per terra c'è qualcosa. Io ho un bellissimo filmato di cani randagi con Lucky che ero andato a trovare. Era pieno di ossa per terra perché questi cani portavano da mangiare. A un certo punto Lucky trova un osso e quell'osso diventa un mezzo di comunicazione per settare gli status sociali. Ecco, quindi quando noi ci confrontiamo piuttosto che ci scontriamo tra di non noi, non occorre che ci sia chi vince e chi no, perde. No, però come lo puoi fare questa cosa qua? Se tu sei se tu parti dal presupposto che vuoi osservare con curiosità quello che l'altro sta dicendo. Se parti dal presupposto che tu devi soltanto difendere la tua posizione, ecco che cade questa cosa qui. Esattamente come succede con i cani. Beh, io cosa vuoi che ti dica? Niente, non lo so, stavi per dire no, una perché, cosa prima. No, adesso non era ironico il mio cosa che ti dica. Cioè, quello che dici tu è effettivamente ti fa poi pensare a come comportarti fra persone. Sai, quando uno vuole a tutti i costi avere ragione, quindi si discute, no, c'ho ragione io, c'ho ragione tu. Nessuno valuta mai la terza ipotesi che magari fa avvicinare di più le persone, fa risolvere dei problemi in modo meno aggressivo e ti fa, cioè è veramente un insegnamento continuo. E non è facile farlo, ovviamente, no? Per beh, cui certo, io immagino. Stesso che ti sto dicendo queste cose, non è che io, tutte le volte che io parlo con la gente non mi scontro mai. Però quando è che avviene lo scontro? Quando in realtà in ballo vengono chiamati dei bisogni che sono relativi, per esempio, al difendere la propria identità. Cioè sono dei bisogni che vengono toccati di base. La stessa cosa è per i cani. Quando si scontrano tra di loro è perché il cane è aggressivo con l'altro cane se è maschio più o meno della stessa taglia. Oppure se sente che c'è un elevato livello di testosterone. Okay. Mentre perché in quel caso lì quel cane viene ritenuto una minaccia. Anche se non ha fatto nulla? Anche se non ha fatto nulla, soltanto per la sua. Ma questa è una cosa che abbiamo anche noi etologicamente istintiva, è molto funzionale. Cioè, se passa di qui qualcuno, siamo pieni di vetri, se passa di qui un uomo o una donna, il nostro cervello inconsciamente fa un rapidissimo calcolo di quanto pesa, quanto è alto, quanto è attraente, quanto non lo è, per capire se è un rivale o no. Anche quanto è qualcos'altro io. Che cosa? No, non si può sono dire. Donna. Non si può dire. Ecco, però vedi no, no. Al massimo metterà un bip. No, per dire, però, capisci? Se passa di più una donna avvenente, a me girano le balle subito. Però questa, subito. Questa cosa qua la fai in un microsecondo. La stessa cosa fanno i cani. Però i cani fanno queste operazioni con un grossissimo coinvolgimento anche dell'odore. Quando i cani tra di loro si annusano, si annusano per esempio i padiglioni auricolari, perché i padiglioni auricolari contengono all'interno delle ghiandole che si chiamano ghiandole ceruminose, che liberano dei feromoni che ti raccontano qualcosa sullo stato mentale emotivo di quel cane in quel momento. Ma fantastico. Stessa cosa nelle ghiandole poste nel solco intermammario, nella zona genitale, ecco perché i cani si annusano i genitali tra di loro, non soltanto per sapere chi sei, ma come sei in quel momento. Ah, cacchio. Capito? Quindi guardano la taglia del cane, come si muove, che sguardo ha, che odore ha, e immediatamente so con chi mi sto rapportando. Se questa figura è una figura minacciosa, ecco che sale l'adrenalina, mi preparo, attivazione emozionale, che noi tecnicamente chiamiamo arousal, no? si parla tanto di arousal in cinofilia ultimamente, e quindi ovviamente lo scontro è più probabile. Ma scusa, ma secondo te inconsciamente non facciamo anche noi tutte ste robe? Sentiamo l'odore anche se non andiamo direttamente a annusare l'orecchio, il sedere di uno, ma certamente sì, a parte che l'odore gioca un ruolo importante anche per noi, anche se ce ne accorgiamo poco. Io lo sento lontano miglio se sento odore di quella cosa che non potevi dire prima. che cioè, abbattette un sedere, una cosa, e che la dà via come il pane. Ma va bene, va benissimo, perché l'importa... vedi, Peter? No! Bravo, ma Peter. No! Allora, bisogna dire anche questa cosa qua, che veramente qua io forse mi avvicino a Cruciani con questa. Ognuno è libero di vivere la propria sessualità come diavolo vuole lui. Ho capito, non ma devi se c'è bollare. Una fidanzata, no, tu la devi... No, ragazzi, no, non sto qualcosa. Non sto parlando di persone impegnate. Sto parlando. Tu dici, c'è una che la dà via come il pane. Ma perché bisogna denigrarla? Vuole farlo? Certo. Va bene così. Ma va bene così. Una vuole essere tutta uomo. Casa e chiesa? Va bene così. Non cioè, col mio uomo. Ma certamente. Ma facesse quello ovvio. Che vuole con gli altri. Ma cioè, siamo d'accordo, per carità. Boh. E detto questo, ci vediamo fra poco. Ciao. Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Perché ridi? Dico. No, non lo puoi dire ai microfoni. No, non si può dire ai microfoni. No. Madonna, che segreti questa domenica di giugno. Allora, stavamo parlando di tutto. Abbiamo parlato di un sacco di cose. Sì, di un sacco di cose. Stavo pensando che quando tu mi fai notare queste sfumature. Le sfumature? È lì che proprio perdo la testa. Ah, sì? Sì. Tipo ostico, supercalifragilistica spiralidosa. No, sta cazzata no. Vuol dire qualcosa di più, no? Prova. Tipo deriva zoantropologica. Ecco, qui sì, c'è proprio un impennamento degli ormoni. Prova a dire un'altra? No, dai, parliamo di cose serie, dai, che a casa va bene, ci aspetta. Allora, posso chiederti una cosa io? Sì. Che da quando ti conosco ho scoperto cose che non sapevo. Io non sapevo un sacco di cose prima, quindi pensate, sto povero Cristo si è fidanzato con concorrente con... No, però, allora, un tratto di Rosita che è molto curiosa. Lei adora filosofia, è proprio curiosa, quindi effettivamente è bello. No, e poi cosa. Mi piacciono le persone intelligenti che stimolano la mia testa, adesso al di là di tutte le battute. E con te devo dire che non si finisce mai. Tanta segmentale, No, che scemo. No, ma ha fatto impressione quando ti sei associato prima a Giuseppe. A Cruciani? Sì, perché poi... Siamo maschi tutti e due, qualche cosa di legame ci sarà, no? Vabbè, speriamo posso no. tranquillizzarti così, su tante altre cose invece siamo proprio due poli opposti. No, diciamo su tutto. Vabbè, ok. Boh, detto ciò, volevo dire, io ho capito, ho scoperto che cos'è la mindfulness, ok? La meditazione. Cos'è? È la meditazione. Che tipo c'è un'app sul telefono. Ecco, capito tutto. Sai come parlano le milanesi e le milanesine, le bauscette. È una meditazione che si trova sul telefono e che quando tu la fai praticamente poi stai bene, vero? Senso, milanese no. Proprio mamma mia, vabbè, no. Cosa c'entra però con gli animali e con i cani? Perché tu adesso stai... Allora sì, spiega brava. Quella della meditazione tu, la brava, mindfulness. Brava, no, brava. È una forma di meditazione. È una forma di meditazione, tra poco ne parliamo, vedremo anche quali sono i benefici a livello della salute, della psiche e via dicendo. Però, cosa interessante, ho incaricato un mio collaboratore, anche lui appassionato di mindfulness, ha fatto un corso di formazione, bravissimo, chiama Giuseppe Luscia e l'abbiamo anche intervistato ai nostri microfoni. Sì, poi magari glielo richiederemo. Educatore cinofilo. Allora, l'8 luglio ho chiesto a Beppe, di Giuseppe Luscia, di fare una condurre una giornata su mindfulness e relazione col cane. Perché bello. Le due cose si intrecciano e uno dice ma che fai, vai, ci fai meditare i cani? Assolutamente no, non è questo l'intento. Mm-hmm. Però è stato studiato da sempre, la mindfulness è qualcosa che fa bene alle relazioni. Mm-hmm. E io ho introdotto ufficialmente relazioni fra uomo e donna, fra qualunque relazione, perché figli, genitori, sì, fratelli, la mindfulness amici. Ti mette a contatto con le tue emozioni, le tue sensazioni, che cosa provi, il tuo intuito, fa sorgere una saggezza naturale, le tue relazioni, l'impatto che le parole, la comunicazione con gli altri, le relazioni con gli altri hanno su di te, mm-hmm, nella tua parte interna, no? A livello emotivo, insomma, quindi ti permettono di muoverti meglio in tutto il mondo, quindi compreso il mondo sociale. Quindi tu in realtà, facendo un corso di mindfulness assieme ai cani, lo fai in modo che le persone che hanno un animale in casa possano avere una relazione più totale, più profonda con il proprio animale. Assolutamente sì. Cioè, allora, già un protocollo mindfulness normale ti mette più a contatto con il cane. Noi abbiamo pensato di fare una giornata con il cane perché c'è un'applicazione della mindfulness alla relazione col cane. I cani ci chiedono di essere presenti. Fantastico. I cani sono presenti, sono per noi un'ispirazione da quel punto di vista. È per questo che questo grande maestro di meditazione, si chiama Eckhart Tolle, lui dice gli animali sono guardiani dell'essere. L'essere per lui è essere, non fare, non pensare, non agire. Quindi gli animali sono guardiani dell'essere, tanto che lui dice ho vissuto con molti maestri zen ed erano tutti gatti. Ecco. Allora, i cani ci richiamano al momento presente, loro amano le cose semplici. Quando noi usciamo a fare una passeggiata con loro in questi giorni, loro sentono l'odore della sera mentre noi stiamo pensando ancora alle notifiche Facebook. Infatti. Quindi la relazione col cane è un modo per diventare più mindful, cioè più presenti, e quindi far diminuire lo stress e tutte le altre cose che ne conseguono, ma la coltivazione dello stato mentale della presenza è qualcosa che approfondisce e ci permette di amare, far sentire maggiormente amato il nostro cane, di essere più efficaci nel training, più efficaci nel gioco, più efficaci nei rapporti sociali, più efficaci nei problemi comportamentali. Ed è per questo che ho chiesto a Giuseppe di tenere una giornata, perché insomma io ho introdotto la meditazione ufficialmente, istituzionalmente, nel corso di formazione per educatori cinofili già dal 2011, quindi sono già 6 anni che in Think Dog ufficialmente le persone si affacciano alla meditazione, perché non è che meditiamo tutto il giorno, non sono dei ritiri, certo, però gliela presento. Allora ho detto, piuttosto che far sentire di nuovo me, voglio che sentano un'altra voce importante in Think Dog, che è quella di Giuseppe, che ci farà vivere una giornata mindfulness con il cane. È proprio da quando ti conosco è proprio un altro approccio, cioè c'è veramente una relazione con tutto quello che ci circonda, perché inizia ad avere una relazione anche con le piante, inizia ad avere relazione con qualunque animale. Esattamente. Io che sono allergica alle punture di zanzara, ora vi dirò questo, siamo in periodo dove arrivano le zanzare, mentre prima quando le ammazzavo perché mi pungevano, perché pure mi pungessero, avevo anche una sorta di goduria mentre lo facevo. Adesso mi dispiace. Ma l'approccio sano è quello. Esatto. Non devi perdere la capacità di difenderti. Per sì, cui, ecco. Esatto. Però voglio dire, comunque devi provare compassione sul fatto che stai togliendo una vita, qualunque essa sia, anche se fosse di un tuo nemico. Questa, cioè, di base è questo. Quando tu togli una vita, non stai togliendo una vita, stai togliendo vita. Questo togliendo è il vita. E i tibetani hanno un nome particolare per questa interconnessione, no? Tutto quanto interconnesso, che è tendril. Tendril. Tendril, che cosa vuol dire? Tendril è interconnessione, sorgere dipendente. L'essere umano, così com'è, ti faccio una domanda che poi chiudiamo qui, sì, che faccio spesso in aula. Quante persone sono coinvolte nel dare un bocconcino al cane? Quanti individui sono coinvolti? 2. Sbagliato. Come, nel primo, dare il bocconcino al cane? Sì. Primo, chiediti, quel bocconcino è un animale? O era un animale? Era un animale. Quindi ce ne sono almeno 3. 3. Ma poi, quel bocconcino lì, anche se fosse fatto di tofu, per poter essere tra le tue dita, qualcuno si è preso cura di quel cibo perché potesse arrivare nelle tue mani. Quel qualcuno erano individui. Quegli individui hanno dovuto cibarsi, vestirsi, sfamarsi, sono stati collegati a altri esseri umani, altri animali, piante. Come dice Thich Nhat Hanh, quando tu bevi tè, stai bevendo nuvole. E con questo ho avuto un orgasmo. Ecco, cominciamo dallo spirito al terreno. Passando... No, amore, adesso a parte gli scherzi, io adoro questo tipo di cose perché sono, vedi, da questa cosa qui dove chiunque su una domanda, secondo te chi dà il bocconcino al cane, quante persone sono? Sono coinvolte. Sono sì. coinvolte, esatto. Persone, la domanda individui, giusta. Cioè il punto è che quanta tutto vita è coinvolta. Cioè quando tu bevi tè, stai bevendo nuvole, perché per far crescere la piantina di tè, lì c'è dovuta piovere della pioggia, delle sostanze sono state prese dal terreno, ha dovuto batterci il sole lì sopra e la pioggia che è caduta erano prima nuvole. Ecco l'interdipendenza. Nulla a questo mondo è davvero scollegato da noi. Silenzio. No, perché guarda, guarda, questa cosa è veramente fantastica. Perché sto pensando che se chiunque avesse questa consapevolezza nella vita di tutti i giorni, in qualunque azione si fa, da quando vai a comprare la frutta fruttivendolo e quella frutta e verdura è coltivata, quindi c'è stata la pioggia, come dici tu, le persone che l'hanno raccolta, come è arrivata, sì, lì, sì, sarebbe, sarebbe veramente un mondo fantastico. E quella consapevolezza, e questa è la cosa che manca oggi, e questa secondo me soprattutto questa coscienza su questo tipo di ragionamenti qui che potrebbe rendere manca, veramente un mondo migliore. Ma qual è migliore. Il modo? Va coltivata. Allora, se tu sei d'accordo, domenica prossima parleremo di come si coltiva la consapevolezza. Sì, benissimo. Allora, domenica prossima, è stata una domenica, devo dire, sono molto emozionata oggi, non sto scherzando, sono serissima adesso al di là delle battute. Vi saluto a tutti, ci vediamo domenica prossima, buona domenica. Ciao.